Blup. Scusa amore, è entrato un gruppo da 5, non posso chiudere. Voi intanto andate e te raggiungo dopo. Blup. Guarda che facciamo tanti, Diego. Blup. E che te devo dire, sono entrati questi in pizzeria. Blup. E mandali via. Blup. E poi come campiamo lei là? Come campiamo? Blup. Ma chi sono questi? Blup. Turisti. Dai, mi sbrigo. Te chiamo tra 5 minuti. Voi intanto andate. Blup. Hai fatto, Diego? I bambini vogliono uscire. Blup. Ancora stanno qui, purtroppo. Ma te avevo detto di andare intanto. Blup. E digli che chiudete e mandali via, no? Stiamo a far tardi, Diego. Blup. Io ho detto, ma non capiscono. Blup. Come non capiscono? Blup. È una comitiva dei giapponesi. Blup. Diego, vai lì e io lo dici in inglese. Vai lì, fai go home. Se dice così, si dice. Blup. Aspetta che ci provo. Tu intanto vai, però. Dai, te chiamo dopo, te chiamo. Blup. Diego, siamo arrivati da Loredana, c'è sta un sacco di gente, c'è pure un sacco di roba da mangiare. Sbrigate, sbrigate. Blup. Scusa, sto in mezzo al traffico, non posso scrivere. Blup. Ma ti aspettiamo per mangiare? Blup. Non posso scrivere, sto guidando, dai. No, no, non mi aspettate, dai. Iniziate che qui è un casino. Trin. Trin. Trin. Blup. Perché non mi rispondi, Diego? Blup. Diego, ci sei? Blup. Diego, è ora che sta in viaggio, tutto bene? Blup. Diego. Blup, scusati, mando questo messaggio audio, non posso scrivere che sto guidando, dai. Traffico tremendo, ci sentiamo dopo che mi fermano i vigili. Ciao, ciao, ciao, mi fermano i vigili, ciao, ciao, ciao. Blup, a te fermano i vigili, Dream, dream, dream. Blup, mi rispondi? Blup, Diego, dream, dream. Blup, Diego, rispondi immediatamente. Blup, Diego, dove cavolo stai? Blup, ecco là, mi hanno fermato i vigili, che ti avevo detto, ci sentiamo dopo, dai. Ecco il libretto, ecco il libretto. Blup, porca miseria, non mi ricordo se abbiamo fatto la revisione. Blup, l'abbiamo fatta? Blup, Diego, ti hanno fatto la multa per revisione? Blup, Diego, che succede? Blup, Diego? Blup, ti hanno fatto la multa? Blup, tutto ok, purtroppo non c'avevo la patente, devo seguirli al commissariato, ma è qui vicino, poi ti dico, lei là. Blup, non la porti mai, che ti avevo detto che fermano? Blup, ma ti hanno fatto la multa per revisione? Blup, Diego? Blup, messaggiami appena puoi, ora vado che stanno a fare il brindisi, Dream! Dream! Blup, Diego, ci sei? Blup, perché non mi rispondi? Blup, tutto bene al commissariato? Blup, sto in pensiero, scrivimi. Blup, Diego? Blup, Diego? Blup, è tutto bene, lei la sto a parlare col vigile, deve trarla come nonna, mo te dico. Blup, ah, bene. Quindi, t'ha fatta la multa? Blup, Diego? Blup, Diego, t'ha fatta la multa? Blup, no, no, non m'ha fatta. Blup, e meno male. Ma quando arrivi, ti metto da parte qualcosa da mangiare prima che finisce? Blup, Diego? Blup, scusami, il vigile è mezzo cugino d'Antonello pure lui, te lo ricordi Antonello? Blup, sì, Antonello. Blup, mi sta attaccando una pipa, dice che vuole fargli un'improvvisata. Appena finisce di parlare vengo lei là. Blup, ma non era morto tuo cugino Antonello? Blup, ah sì, cavolo, c'hai ragione. Aspetta che io lo dico. Blup, Diego, però subito vieni qua, Blup, Diego? Blup, stai guidando? Blup, Diego? Blup, scusa, lei l'ha presa mai, non lo sapeva che era morto. Blup, oh mannaggia, cavolo. Blup, te scrivo tra poco, lo sto un po' a consolare. Blup, certo, certo, certo. Blup, Diego, è mezz'ora che stai a parlare con questo, Diego. Blup, eccomi, scusa, sto a casa sua, ci sta una mezza festa con i colleghi, ho stamattina su un po' di morale. Blup, una mezza festa. Blup, Diego, vieni immediatamente qua. Blup, e come faccio, lei là, mi ha tolto la multa, la moglie mi ha pure fatta la carbonara. Dream, dream, dream. Blup, perché non rispondi, Diego? Dream. Dream, dream. Blup, Diego, rispondi immediatamente. Blup, scusa, lei l'aveva abbassata la suoneria. Non te posso richiamare perché il vigile sta facendo un discorso, sta mezzo ubriaco, insomma, non te posso spiegare. Blup, Diego, mi hai preso per scema? Blup, Diego, con chi stai? Blup, Diego, che stai facendo? Blup, Diego, veniamo là, dai. Dimmi l'indirizzo e veniamo subito là. Blup, che intendi, scusa? Blup, che vengo lì dove stai? Sono proprio curiosa di vedere sta casa, sto posto, sono proprio curiosa. Blup, aspetta che chiedo, la casa è un po' piccola. Blup, guarda caso, la casa è piccola, Blup, Diego, stiamo venendo. Blup, Diego? Blup, Diego, se non mi dici immediatamente dove stai, Blup. Ok, hanno detto che si può, ci stringiamo un attimo. Blup, dici davvero? Blup, sì, gente alla mano, dai, via Laurenzi 74, sbrigate. Blup, beh, non so proprio adesso, magari Loredana ci rimane male che ce ne andiamo. Blup, dai, vieni, sono simpatici, via Laurenzi 74. Blup, ok, stiamo scendendo. Blup, niente, lei è arrivato il vicino, si è lamentato per rumore, ci stiamo a spostare, dai, mo te dico dove. Blup, Diego, i vicini si sono lamentati per la festa dei vigili urbani. Blup, con chi stai, Diego? Blup, Diego, se non arrivi entro 5 minuti, Diego! Blup, Diego, ti lascio! Ecco, ti lascio, mi porto via i bambini e ti lascio! Blup, lei là, sto venendo, sto qui, mi hanno rotto 3 ore per decidere un posto. Blup, Diego, da qui finisce tutto, sono le 5, dovevi stare qui alle 2. Ti lascio, tu mi tradisci! Blup, ma che sei matta? Ma come fai a pensare una cosa del genere? Blup, come faccio a pensarlo? Sei un pezzo di merda, mi dici le bugie, mi tradisci! Blup, dai, segna tutto su un foglio, come sto a guidare, non posso leggere. Blup, ma vaffanculo, va! Blup, Leila, sono arrivato a casa, dove state? Blup, Leila. Blup, oh, dove cavolo state? Blup, dove siete andati? Blup, Leila, rispondimi. Blup, Leila, ho avuto dei contrattempi, mi sono fatto un culo così per arrivare in tempo, Leila. Blup, ci abbiamo culo che non ci sono accorti dalla revisione, che la dovevi fare tu, la dovevi fare. Blup, io mi faccio un mazzo tutti i giorni, te non ti rendi conto? Può succedere che una volta uno c'ha un contrattempo, no? Blup, dove siete, Leila? Blup, Leila. Blup, Leila, tutti fissi con le allucinazioni, non capisci che io sto facendo davvero del mio meglio, che mi sto impegnando con la pizzeria e tutto quanto. Blup, Leila. Blup, Leila, dove cavolo stai? Blup, io ti ho messaggiato tutto il tempo, mica ho fatto come te che sei scomparsa. Ecco, blup, Leila. Blup, Leila, dove sei? Blup, Leila. Blup, Leila. Blup. Lo sai dove stavo, Diego? Blup, oh, finalmente, do cazzo stai, Leila? Blup, a via Lorenzo 74. Blup, ah, oh. Blup, c'è sta l'aeroporto dell'Urbe.